Mari, tu sei? Eia! E Marco da Sassari, dai. E beh, come ti anda? Buonasera, ma... Cosa? E beh, come ti anda, in generale? Come ti anda? Come state? Ah, è tutto tranquillo. Si va avanti, va. E poi? E al solito, dai. E beh, oggi niente, non siete entrati al 23, no? Non c'è nessuno a quanto sento. Faccio pochi minuti fa, ma non c'è nessuno. Tutto deserto. E oggi è sabato, così che oggi se ne vanno fuori, per cui si stanno preparando per uscire là. Eia, vabbè, noi siamo al 10, eravamo al 10, io sono in ascolto adesso perché... Ho finito di mangiare adesso. Ascolta, Gio Marì, la modulazione come ti sembra? Non ho capito. La modulazione come ti sembra? Ah, va benissimo, è perfetta, perlomeno io ti sento perfetta. La radio è buonissima, chiaro, bella e pulita. Ok, dai, questo è un altro aggeggio, dai. Vabbè, Gio Marì, dai, io sono in ascolto sul 10, ti saluto, dai, buon proseguimento di serata e buon tutto, dai, ciao. Ricambiato tutto, vai, salto di casa, alle prossime, ciao. Hola, hola, hola, Mario, ci sei? Vamo a sapere, Mario, se scucci. A chi tu sei? Lo c'è stasera. A chi tu sei? Chi va là? Ehi, Bobo, sì, ma troppo presto ci sei svegliato, sì. Ehi, buonasera, Giovanni. Buonasera, Bacchi. Ah, non si è sentito nessuno oggi, boh. Io ho acceso un po' cazzo, ma no. Non c'è un'anima. Era Marco a Cucenda, ha chiesto un controllo e se n'è andato su 10. Tore non si è sentito. Marino, più poco. Evidentemente stanno arrostendo. Senz'altro, Marino doveva fare il fuoco senz'altro stasera, caspita, non sta piovendo, dunque è di fuoco. Tore è andato a prendere gli squali e via dicendo. Mario non si è sentito dove sia andato al lavoro, vediamo se c'è ancora. Mario? Non c'è. Evidentemente sono uscito a farsi la passeggiata. Vediamo un po', mi sembra che ho sentito un fischio, chi è? Buonasera, Gio Maria, forse anche gli altri, non so chi c'è, mi sto appena accendendo, avanti Gio Maria. Noi dimmo, la persona è frettomata, il carrello è passato. Hai visto, sembrava che stavamo fischiando le orecchie. No, ero su da mia figlia, stavo tenendo il bambino che... L'altro bambino sta giocando a pallone, non siede, a me mi è toccato rimanere con l'altro più piccolino. Va bene, meglio così, dai. Chi c'è? Tore, avanti Tore. Ma chi si c'è? Tore non c'è. Tore è andato a pescare gli squali a Plantamora. Dice che ci sono gli squali. Ma chi sono già? È qua. Vai, ma chi? Buonasera, Marino, ben ascoltato. Avanti. Bacchisio. Adesso sei tu proprio Bacchisio, Mi arrivi benissimo, bene. Hai risolto, sì. No, sto andando con la verticale bianca, sto andando. Ho risolto, dov'è? Era il PL a massa, era il PL dei clienti. Però c'è un altro problema, non so, poi lo troviamo. Se esce, mi sembra che in ricezione fa con la radio, in trasmissione c'è da dormita. Qui sta arrivando tutto sparato, sta arrivando con questa qua, con la verticale, va bene, là. Io sto usando l'additivo invece, bene, vera. Avanti, Gio Marì. Infatti, oggi lo sento anche bene io pure, così che... Meglio così, là, se c'era il piede a massa, è chiaro che... Hai fatto un bel lavoro e già sta andando bene, Bacchi, fai. Brigante? Ah, ingolfato si è Bacchisio, Fammi tanto, vai, Gio Marì. Bacchisio. Ma com'è che l'hai messo questo PL? Sicuro sei che l'hai soldato bene? Gigante? Dice che sta chiudendo la radio, boh. Ma magari sta cambiando... o sta cambiando antenna, non lo so. Ma chi si ho? Ah, stai uscendo, Marino forse non ti senti adesso. No, no, non sento nulla, Ah, che sono sordo. Poi, scuoletto. Qua scuola l'ho pescato, vai tu. Ah, Marino, ho pescato. Ehi, comunque Bacchigio sta chiamando. Era il gazzigato. Ma ho sentito. Sta motore, mi senti? Adesso sì. Io sì, gli altri non lo so, se ti sente Marino. Adesso sì, Bacchigio, avanti. E quello da cosa della macchina è andato in fumo, vuol dire. In ricezione va, in trasmissione nulla, zero riporto zero. E adesso già stai scendendo bene, dai. Avanti Giovanni. Si vede che Bacchisio ha molto da fare, si vede che sta sempre operando, qualche volta magari la questione non va bene, ma chi confermi? E quello del coso, la stazione fissa che non va bene Giovanni. Va solo in ricezione, ma in trasmissione non va. Le fa ad un raio. Capita, comunque adesso va benissimo, va benissimo. Avanti, cirottore, buonasera, Avanti, dimmi, cosa hai combinato oggi? Nuda che nuda, buonasera comunque. Ma chi? Non è che c'è il capo invece che è interrotto, no? No, se sto dicendo questo adesso, questa radio, mi senti, no? Metto l'altra radio e non mi senti, questo è il portatile. E piccolino, se metto con quello fisso non va. Che cosa le giunta allora? E quegli apparati lì scaldano parecchio e deve darsi passo da... è partito il finale? Senz'altro, anche il finale è partito. Perché se parlo io l'ascolto nell'altra radio, sì, a due passi, diciamo così, si sente, però in lontananza non funziona. Deve essere partito il finale, per quello non lo sto operando più, l'altro simile al tuo. Quello è come il tuo. E io se la faccio, lo ricovero. Infatti, solo il portatile adesso devi usare. Il portatile. Però il portatile adesso lo usiamo e quello lo mettiamo a dormire. Andiamo vai, andiamo Giovanni, ma chi? Bobbo, avanti Giovanni. Ok. Ultimamente non è che abbia capito niente in quanto mi ha distratto e non avevo capito cosa stava dicendo il dottore. No, non è che puoi rispettare. No, ho detto solo di Bacchigio che... che quello lì ce l'ho anche io e scalda parecchio. Anche il mio mi stava dando problemi. Cosa scalda? Vuol dire che c'è qualcosa. Non dovrebbe, però gli apparecchi un po' devono scaldare. E se no, cazzo, sei ghiacciato come fa? Devo per forza riscaldare, capito? E se no come fa a funzionare sto? Ma se riscalda troppo vuol dire che c'è qualche cosa che non va bene. Ho pigliato il rimonito. A me mi stava dando problemi perché a volte mi sentivo, a volte uscivo basso, a volte non uscivo nulla. Quindi la svegliata si occupa una bassa. Come mai tu? Deve essere che c'ha problemi, c'ha. L'apparecchio deve essere fatto male. La passi tutto, vai dopo. Io ce l'avevo uno. La batteria, non carica la batteria, boh, strano, Apparecchio nuovo. Cazzo, un baffo nuovo, guarda. Non mi carica la batteria, quindi che... Infatti la bisogna cercarla, se la trova a ordinarmela un altro, perché è nuovo nuovo questo mao. Però non mi carica la batteria, magari arriva fino a 9.6, però vai a abbassare la portante, a parlare e si spegne. Provate a caricare in tutte le maniere, non carica, non va, non va. Allora ce l'ho buttato da parte, ho sentito con la batteria, vuol dire che lo riprendo. E col caricabatteria non ce la fai a usarlo, no? Vabbè? Non si può utilizzare col caricabatteria o... Giovanni? Beh, io la batteria la... ripeto, è nuova, non l'ho mai usato, non l'ho mai usato. Era già un anno fermo, forse per quello, non funziona. Prima funzionava quando l'ho preso, magari perché l'ho usato la sera, ha fatto bene, dopo un annetto fermo. Ma acceso e non funziona, non caricava, ecco, non caricava per nessuna ragione, perché si poteva caricare con la macchina e più dalla carica batteria che danno in dotazione, però non carica, dall'altra parte dall'altra, evidentemente è partita la batteria, vai, però forse la trovo, vai. E già la trovi la batteria, caspita, ci manca di altro, avanti, va chi? Ehi, non parlarsi più di Giomarì che sia il caricabatteria che non funziona, Che sia il caricabatteria, arriva a quel punto e poi non ce la fa più. No, il caricabatteria va bene, va qui. Caricate la batteria perché ho provato un'altra batteria carica, perché di solito quando metto la batteria a caricare diventa rosso, quando è carica diventa verde, mentre qua si sa sempre verde rosso, verde rosso, verde rosso, e carica batteria non c'è niente, perché l'ho provato l'altra batteria e l'ha caricata, mentre questa l'originale sua invece non carica, non va. E allora batteria, e bisogna comprare la batteria nuova, capito? Batteria nuova insomma lì, e dunque è tutto a posto, ce lo metti a torre lì con la manovella, c'è la corrente, avanti to. Ah sì, l'abbigliamo, sì, l'abbiglio è una brava carica, e vabbè. Vuol dire che la batteria se n'è andata, ha detto arrivederci, ha detto. Vero Gio Marì? Sì, può capitare anche una batteria difettosa, Scatta, potrebbe succedere anche quelle lì. Non tutte le batterie sono perfette, per cui questo era un anno fermo, era un anno fermo e non ho caricato più. Era una cosa poca, mi sembra costa 17 euro, mi sembra così la... quella batteria nuova, per cui quella del pino ce la butto e me la compro nuova, se tocca buttarsi il birichino pure. Oh, ti ordini la batteria Giovanni, non ci buttare nulla, poi passatore e sopra il tore, vero Tom? Ah, io sarebbe seguito pure, uia, andiamo, ce la riprenda signor Bacchi. Uia, male stiamo andando, queste radio sono tutte malate, magari manca la dolore banza, magari il grappo, magari non riesce a povertà, che è solito. Dunque bisogna fare così, prendi tutto dentro un sacco e poi nel contenitore e farli morire, capito? Poi però bisogna comprare le nuove. Allora ci vuole la materia prima, denaro, vero Giovanni, denaro. Ma è così, Bacchi. Ha ragione Marino, Denaro ci vuole, Materia prima, soldi, non vengono da vanno con la roba, La prima reputata aggiustata non conviene più, Aggiustata non conviene più, è come la televisione, ormai è tutta schede, qua non ti parte a prendere, ce la butti via. Poi se acquisti la scheda, ti costa il doppio, come la scheda lavatrice e compagni. Avanti tu. Fai prima a recompararlo. Ciao, so, già va, che di più buono è Gossani, ecco cosa è. Che ti dà 13, Gossani e Boggo e Durani e Boggo. Purtroppo è così, secondo quanto spendi. Adesso Gio Maria prima si faccia il calcolo, avere quanto costa nuovo quello da parchetto. Secondo quanto costa, se ne conviene si compra la batteria, se no dovrebbe applicarsi il lugoso, completo, ma dovrebbe, perché forse conviene comprarsi la batteria, intanto con lui apparecchio nuovo. Vero Giovanni? Ma poi il fatto che ogni banfo c'ha la batteria sua, capito? E non tutti vanno bene, capito? Per cui deve essere la sua proprio, se no non incastra e per cui lo fa contatto bene. batterie buone, sa, oggi cerco tutti a cercare di risparmiare, però risparmiato che ci perde sempre il cliente, detto. Cosa ci vuoi fare? Adesso questa batteria sembra che costi poco, ma se avrei trovato la batteria più buona l'avrei presa, ma non tutte le batterie sono adatte a questa, a questo baffo, capito? Infatti, non sono tutte che vanno bene. Vabbè, pazienza, si troveranno qualcuna. Boh. Andave, andave. Ce l'ho batti, ce la riprenda. Ve la riprendo per salutarlo, per se io passo in QRT. Bene, grazie delle quattro chiacchiere, proprio oggi sono state proprio miniatura, ma fa sempre piacere ascoltarsi. Ciao Giammarì, buona serata, un saluto al Correa familiare, a domani se tutto coincide ce la chiacchieriamo ancora. Anche per Tore la stessa cosa, ciao Tore, buona serata, saluto la signora e il cucciolo. A domani, bye bye. Marino, anche per te, buona serata ancora, buon QSO, buona cena, buon tutto, saluto il Correa, a domani, bye bye. Ciao Bacchi, ben sentito, a domani se coincide, se in casa ci vediamo domani, se, se tutto va bene, secondo che non hai scuola, perché domani mattina lavoro, bene, avanti to. Ci sentiamo Bacchi, a domani se tutto andrà bene. Tanto ha messo pioggia per domani sera, quindi aspettatela un altro pochino d'acqua, andave, se prende Giammarì. E ne approfitta chi ha chiuso, dai, hai visto ieri, atta ieri notte, cazzo è scaricato le bagatta, che se piove domani, cazzo a casa, tranquillo, non mi bagno io, e portate un cisce da qua l'acqua. Del resto tutto va bene, per cui ne approfitto, vai. Salutiamo a Bacchiso, quella buonasera, ben sentito, grazie di essere entrato e a salutarci e ci sentiamo, ricambiato tutto anche in casa tua. Ciao Marì, altrettanto vai, famiglia. E idem a Torre, Torre ripreso, dai, io chiudo, vai. Buon proseguimento, a domani se tutto fa brodo. Ok, ciao Gian Marì, ci sentiamo. Ok, riprendi lì, anche due minuti e chiudo. Io stai chiudendo, ogni tanto vedo che se ne va la modulazione. Ciao Giovanni, buonasera, buona cena e saluto in famiglia, domani se coincide. E come ha, quattro ne ha fatto un quarto d'ora, 20 minuti, una bella spruzzata di notte. Poi ha smesso. Stamattina presa tutto asciutto. Bene, avanti to. Catta, andemmo. Messo mio, adesso l'ho visto io, ha messo pioggia per domani notte, domani sera, di pomeriggio e notte. E vabbè, dire me ne tolgo in casa. E vabbè, lascia fare, là. Interessante, lo faccio danno, lo faccio il casotto, sennò guai. No, ho caduto, sì. Eh? Cos'è? Poc'anzi mancava la modulazione ogni tanto. Sì, come schiaccio questa cosa e molte volte mi do l'irudito quando devi ficciare. Ma tu non ce l'hai il microfono come ce l'ho io a Bacchiso? No, c'è il microfono suo originale e questo c'ha cosa che devi schiacciare bene. Ma io ce l'ho inserito nel portabatteria, ce l'ho inserito, sempre attivo. E sono stato di 50-60 centimetri, c'ho il microfono in mano. Il microfonino che ho attaccato là. E lui rimane fermo. Sì, lo so, gli stava abbinando un altro microfono, Però mi sa che non anda, bisogna trovare un microfono adatto. È più uguale, così io mi va benissimo. Va, se va bene. Me l'aveva ordinato Bacchiso dal cugino là. Ne ha preso due, uno per me e uno per lui. Ma l'abbiamo collegato a quel gemello che c'ha Bacchiso. Io e lui ci abbiamo preciso e va benissimo. Lui è fisso sul piano, io ho solo il microfono in mano e basta. Sì, faccio un momento, mi bongo e guardo se ne trovo qualchedun altro. Tutto a posto oggi, sì. Sì, grande appuscio. Per oggi sì. A lunedì ha iniziato a far accompagnare i buddi e fa. Purtroppo. Anche tu sei nonno a tempo pieno, potete rimanere lavorando, no? Allora lavori il doppio. Ma già è bello, dottore, piano piano. Già è bello così. Sì, dai, Marino, ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Ok, ciao Marino, stammi bene, buona cena e tutto. Ok, ciao, tutto ricambiato, a te e famiglia. Allora, ci sentiamo domani, ciao ciao.